274. Fegato d'oca. Leggete l'articolo Oca domestica numero 548 e vi troverete in ultimo il modo di cucinare il fegato della medesima. Ma essendomene capitato un altro, l'ho cucinato diversamente ed essendo a mio avviso riuscito migliore del primo, ve lo descrivo. Dopo cotto, nel modo ivi indicato, levatelo asciutto e legatelo con un intriso composto di grammi 20 di burro messo al fuoco con un cucchiaino colmo di farina e allorché questa avrà preso il color nocciuola, diluitela con un ramaiuolo di brodo e 3 cucchiaiate di marsala. Versateci il fegato, fatelo di nuovo bollire alquanto e servitelo.